Oggi, 30 anni fa, Aldo Moro. 28 marzo 1978. Nella cosiddetta prigione del popolo di via Montalcini a Roma, Aldo Moro continua a scrivere lettere e memoriali. In una piccola cella ricavata nell'appartamento, lo statista viene continuamente interrogato da Mario Moretti. Anche le Brigate Rosse hanno appena finito di scrivere il loro terzo comunicato. Nel dibattito interno all'organizzazione fa strada l'idea di farsi legittimare dallo Stato e iniziare dunque una trattativa per lo scambio di prigionieri. In via del Corso, a Roma, la sede del Partito Socialista, si prepara il 41esimo congresso che si apre il giorno dopo a Torino. Craxi, il segretario, chiede che se dovesse affiorare un margine di trattativa, questo non dovrebbe essere pregiudizialmente distrutto. Daniele Biacchessi, GR24, Il Sole 24 Ore.